ora che sei andata mi rendo conto che stasera è tutto buio intorno a me, come dentro un buco nero, e spero che nelle tue parole ci sia stato qualcosa di vero. Forse un ingenuo ad aver pensato che per te fossi diverso. Sono un sassolino dentro il tuo universo. Ti rispondo un po' in ritardo a una tua vecchia domanda. Questa canzone non risolverà il dilemma e la tua scelta non cambia. Tu insieme a Mr. X, io solo nella stanza. La sveglia questa volta la dovevo caricare per quello che non mi è sembrato fosse un sogno, eppure hai fatto solo quello che dovevi fare. Per me è più doloroso di prendere un pugno, però lo ammetto, non nascondo qualche piccolo risentimento, ed è per questo che il tuo ricordo scivola lento. Mi procuro l'oblio e dentro cullato ci resto, e scrivo sopra un foglio tutto quello che non ti ho detto. Ora che tu hai lasciato tutto buio intorno a me, restano solo le parole tra le tazze di caffè, come il fumo bianco dolce dentro me. So che fa male, ma di te non riesco proprio a smettere. Non trovo le parole per descrivere quello che provo. Mi guardo in faccia, riflesso dallo specchio, e mi sento solo. Ora che hai scelto non mi pento, però nessuno può capire come io mi sento. Ho dentro una ferita aperta che perde sangue. Volevo rimanere piccolo, ma sono diventato grande. Odio quando gli altri non rispettano la precedenza. Per questo malato bisogno di averti sono rimasto senza. Ma in fondo non è colpa mia, è stata solo una tua scelta. Ora sono in astinenza, e ogni volta che vado a dormire riesco a sognarti e sentire quello che hai da dire. E te ne sei andata senza nemmeno salutarmi. Sei stata tu, solamente tu, ma non lamentarti quando non mi girerò nemmeno per guardarti. Ora che tu hai lasciato tutto buio intorno a me, restano solo le parole tra le tazze di caffè, come il fumo bianco che dolce dentro me. So che fa male, ma di te non riesco proprio a smettere.